Questa mattina ci viene proposto un brano del profeta Ezechiele, capitolo 3, versetti dal 16 al 21, che è molto forte. Ve ne rileggo un passaggio. Figlio dell'uomo, si rivolge Dio al profeta, ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. La sentinella è quella che vede arrivare il nemico e dà l'allarme, no? Non deve dormire. Quando sentirai che io dico al malvagio, se tu continui così, morirai. Se tu non lo avverti e non parli, perché egli cambi strada, il malvagio morirà a causa della sua iniquità, ma io chiederò conto a te che non hai parlato. Ma se tu parli e il malvagio non si converte dalla sua malvagità, egli morirà a causa del suo peccato, ma tu ti sarai salvato. Io riflettevo e dicevo: come possiamo applicare questa parola alla nostra vita di ogni giorno? Perché questa è parola di Dio ed è immortale, eh? E mi venivano questi pensieri che vi condivido, se vi possono servire. Tante volte questo lavoro lo fanno le mamme nelle nostre case, quando, molto più che non i papà, avvisano i loro figli dei loro sbagli. Quante volte ho incontrato donne con matrimoni falliti che mi hanno detto, e la mia mamma me l'aveva detto, guarda che non va bene per te, guarda, ma io, testarda, sono andata avanti e l'ho pagata. Tello qui il caso, eh? Tello qui il caso. L'ha pagata lei, ma la mamma ha fatto il suo dovere di cane pastore che abbaia. O quante volte magari non hanno fatto questo lavoro le mamme, verso i maschi soprattutto, e li hanno viziati. Quante volte, anche qui sono costretto a dirlo alle mamme, e loro devono convenire, ha ragione, ha ragione. Ho detto, mamma, gli hai sempre dato semaforo verde. E lui accelerava l'andatura, finché pampe te sei impastato al primo ostacolo grosso che ha trovato sulla sua strada. Se tu gli avessi messo qualche semaforo rosso, avrebbe rallentato. Ma quanti amici, quanti figli ci sono in giro che sono il crepacuore delle mamme, dei papà, ma delle mamme soprattutto. Allora dobbiamo chiedere al Signore la grazia di essere cani pastori. Io tante volte mi autodefinisco così. Sono un cane pastore, un cane da guardia che abbaia. Ti sveglia di notte, ti dà fastidio, ma ti dice guarda che c'è un pericolo. Ma poi continuavo la mia riflessione e dicevo, e nel mondo chi dice alla gente del mondo che sbaglia? Mi veniva in mente il mondo del lavoro, le fabbriche. Quante ingiustizie ci sono. Quante cose sbagliate, non solo tra le maestranze, ma anche a livello dirigenziale, a livello padronale. E come fai a dire a uno che sbaglia così? Allora mi è venuto in mente un piccolo esempio di mio papà, che era artigiano e faceva mobili imbottiti, poltrone, divani, salotti. Io sono stato con lui fino a 20 anni, perché studiavo e lavoravo insieme a lui e e intanto maturavo la mia vocazione a diventare sacerdote. Quante volte mio padre ha ricevuto la visita di persone che gli offrivano dei prodotti a prezzo stracciato. Mio padre non li comperava mai. E poi ci diceva a tavola, vedete quella roba lì, viene dal giro del furto. È impossibile che te lo venda a un valore del 20% del suo valore, è impossibile. Se mi fa uno sconto lo prendo. Ma se mi fa un prezzo così, ecco, questo io credo fosse un modo, e guardate che non è facile, un modo per dire a quello che veniva, guarda che stai sbagliando, e io non voglio diventare tuo complice. Amici, io vi butto lì dei piccoli esempi, ma ciascuno di voi dovrebbe tenere presente che anche nel campo degli affari, anche nel campo del commercio, c'è tanta ingiustizia, c'è tanto inganno. E trovare il modo di come, dobbiamo chiedere la sapienza al Signore. E infine mi veniva in mente un terzo settore, la politica e l'economia mondiale. Guardate che c'è uno sfacelo. L'abbiamo visto adesso a questi poveri emigrati al confine dell'Europa, costretti a vivere sotto zero e respinti a cannonate d'acqua. Se fa freddo, quell'acqua lì si ghiaccia su di te. Eppure nella nostra Europa, sì, si sono alzati i politici a dire qualche cosa. Ma se poi guardiamo altri settori, come avvengono le transazioni commerciali a livello globale, come avviene la politica degli armamenti, come chi può dire qualcosa? Come fai ad andare a dire a un capo di Stato? Chi, e poi chi ha l'autorità per farlo? E mi veniva in mente il Papa. Se noi leggiamo, certo bisogna leggere i discorsi che il Papa fa, non ascoltare quei brandelli che dicono i giornalisti che filtrano tutto con gli occhi del loro padrone. Leggere quello che effettivamente il Papa dice, il Papa parla chiaro, ma leggiamola fratelli tutti. No. Io ascolto cattolici che attaccano il Papa, stolti. Chi c'è che ha l'autorità come la sua per dire ciò che è bene e ciò che è male nel mondo? Ma quando mai sentiremo un presidente di una repubblica parlare eticamente, moralmente, ma su questioni fondamentali, non su una singola questioncina? Leggiamo quello che dice il Papa, mettiamolo dentro nel nostro cuore. Il Papa le dice queste cose, a meno che tu sei così sapiente, e purtroppo ne incontro diversi, che sei capace di criticare persino il Papa.